Ah, forse è un arcaico. Classico per classico. Beh, quando ho fatto io c'era romano. Esatto. La sociologia dei tempi della pietra. I 12 tavoli. Sì, prendi il piede comune e poi prendevi il piede. E ora fatto il amministrativo. No, politico economico. Politico economico. Ah, io invece politico sociale. Perché non è passato degli esami e volevo fare quello lì. Ma Bologna è studiata? No, Paolo. Ah, Paolo. Comunque c'è anzi politica da Bologna, spacca, è bellissimo. Ah sì? E lei è sentita? Beh, io ho fatto alcuni esami di scienze politiche quando ho fatto l'università a Bologna, però stavo leggendo anche i programmi, adesso fanno anche tutta una parte di lingua inglese, veramente qualcosa di completamente diverso. Ogni azione ha un senso perché costituisce la mobilitazione di alcune risorse, non di tutte, di alcune, e io adesso agisco, sto usando le risorse che ho qua per produrre questa azione sociale, nel senso che per voi non posso usare tutte le risorse disponibili nel mondo, ed è allo stesso tempo la manifestazione di una selezione tra diversi valori che si possono utilizzare per dare senso alle nostre azioni. D'accordo? Per cui i valori che io qui sto cercando di utilizzare sono quelli della, diciamo, della presentazione scientifica di alcune idee, di alcuni concetti, e non i miei valori personali. D'accordo? Non sto facendo propaganda di nessun tipo, politica o religiosa, ad esempio. L'azione sta qui dentro, sta dentro una scatola nera, una black box, e dobbiamo capire quali sono, se ci sono, delle dimensioni all'interno di questa azione. E alla fine Parsons identifica nell'azione quattro dimensioni e arriverà a sostenere che ogni sistema sociale, quindi vedete il processo di generalizzazione, l'università, il sistema societario nella sua interezza, un comune, come sistema, esiste tra questi due condizionamenti ed ha quattro prerequisiti funzionali. Il prerequisito A, che sta per adaptation, cioè le risorse, utilizza alcune risorse provenienti dall'ambiente esterno, per che cosa? Per raggiungere uno scopo, una finalità. G sta per goal attainment, quindi fine, rispettando delle norme, delle regole. I sta per integration, quindi la dimensione, il prerequisito della normatività, e seguendo alcuni valori. N sta per latency, latency pattern maintenance, cioè il mantenimento del modello dei valori, che è latente, del modello latente, cioè i valori non li vediamo, però sono presenti nelle azioni. Ora passo a parte dall'azione, produce questo modello e lo applica ai sistemi. Tonati dice bene, ma deve essere applicato alle relazioni. Quindi una relazione prevede delle risorse, ha un scopo, rispetta delle regole e riproduce dei valori. Ogni relazione si compone di meccanismi adattivi per il reperimento delle risorse, un ruolo societario, cioè serve a raggiungere una, produce dei beni specifici, segue delle regole, degli standard di integrazione, è orientata al valore. Vi ricorda qualcosa tra gli autori che abbiamo visto in maniera un po' più approfondita l'identificazione delle dimensioni della relazione sociale? In quel caso lui però parlava di interazione. Interazione e ne abbiamo visto benissimo. Abbiamo visto Nick Crossley, che è un altro sociologo relazionale contemporaneo, che però ha un approccio di carattere interazionista. Questa metodologia di ricerca, allora, perché è interessante per noi? Donati utilizza questa strategia per studiare ogni tipo di caratteristica sociale. Abbiamo visto come lo si possa applicare, la relazionale di fatto lo fa, all'intero sistema sociale. Noi possiamo trovare le dimensioni, utilizzando AGI, relazionali del sistema sociale, come relazione sociale. E cosa c'è qua, nella dimensione A? Il mercato che produce in maniera specifica dei beni particolari, cioè i beni privati, diciamo così, per i quali il consumo è competitivo, ad esempio. Tutti gli organismi di mercato, cioè tutte le entità anche collettive che esistono con lo scopo di produrre profitto fanno parte della dimensione economica della società, producono le risorse per l'intero sistema sociale. In G c'è la dimensione del sistema sociale che si occupa di definire lo scopo che il sistema sociale deve raggiungere, le finalità, gli obiettivi. Chi è che decide gli interventi in situazione di emergenza? Li decide il mercato? Quando lo decide il mercato, in genere tutto sfocia in un'inchiesta di carattere penale. Ok? Chi è che decide quello che si deve fare? La dimensione politica. Lo Stato. Lo Stato. L'autorità. La dimensione? Cioè, non nel senso dei partiti politici, se siamo quello. Politica, e dico politica in senso statuale, dove si decide che cosa fare, con quali tempi, eccetera. Ok? In I c'è quello che è terzo, il settore terzo rispetto alla dimensione politica e alla dimensione economica della società, cioè il terzo settore che non è né Stato né mercato, il volontariato, le associazioni di promozione sociale, eccetera, stanno all'integrazione perché questi attori producono coesione sociale, operano per la coesione sociale, rimuovono situazioni di difficoltà, producono un bene relazionale, secondario però, rispetto al bene razionale primario prodotto dal quarto settore, che è il settore delle reti informatiche, la reti razionale di quello che è le famiglie, le reti primarie, le vicinate, eccetera. Non c'è sostanzialmente una dimensione della realtà che non sia classificabile all'interno dello schema oggi. La società emerge come la relazione tra queste quattro dimensioni razionali, il mercato, lo Stato, il terzo e il quarto settore. Bene, allora, perché ci interessa tutto questo adesso? Perché utilizzando la metodologia di ricerca relazionale, noi possiamo, e lo prevede la metodologia relazionale, scomporre l'oggetto nei suoi quattro contenuti relazionali e poi ricomporre l'oggetto come la relazione tra queste quattro cose. Per cui se uno dovesse dire, beh, ma il sistema sociale in generale, in che senso una relazione sociale tra che cosa? Quali sono le dimensioni? Sono queste quattro. Voi trovate un soggetto collettivo che non sia catalogabile all'interno di una di queste quattro dimensioni. E quindi noi possiamo utilizzare questa metodologia per scomporre, identificare i contenuti delle relazioni. Teniamo a mente questo passaggio, ok? E non dimentichiamo lo scopo, quello di arrivare alla relazione e non tanto invece al legame. E vi ricordo, l'abbiamo visto 5 minuti fa, all'inizio della lezione, quali sono invece i concetti base della social network analysis: il concetto di soggetto, di legame, di relazione sociale, di gruppo, di struttura del vincolo complessivo. In modo particolare, vi ricordo che la relazione sociale è il fascio, l'insieme dei diversi legami. Bene, la proposta metodologica, quindi ciò che segue rispetto alla risposta alla questione dell'essenza, il realismo critico relazionale, il realismo comprendente la questione epistemologica, è questa. È possibile avvalersi allo stesso tempo della teoria relazionale della società per l'inquadramento del concetto di relazione sociale e conseguentemente per affrontare lo studio dei contenuti delle relazioni e della social network analysis per analizzare i caratteri morfologico-strutturali delle reti di relazione. Cioè, grazie alla sociologia relazionale, in particolare allo schema AGI, io entro dentro la relazione. È una porta che mi consente di entrare dentro la relazione e trovare queste quattro dimensioni. La relazione è fatta di queste quattro cose: la relazione tra padre e madre, tra padre e figlio, tra amici, è componibile come queste quattro dimensioni. Emerge attraverso l'interazione tra queste quattro dimensioni. Ciascuna di queste dimensioni si qualifica rispetto alle altre per i contenuti particolari che vengono. Se questo gioco funziona, io ho trovato una via d'accesso alla relazione sociale che non mi faccia perdere la sua multidimensionalità. Se posso utilizzare Agile per entrare dentro una relazione sociale, grazie ad Agile io tengo in piedi e tengo insieme tutte le dimensioni della relazione sociale. Non ne trascuro nessuna e la considero nella sua completezza, nella sua interezza. Una volta identificati i contenuti prevalenti e ricostruite le reti per ciascuno di questi contenuti, attraverso una network analysis, avrò studiato le reti di relazioni, non le reti di legame. Nella slide successiva, credo, disegno quello che ho appena detto, cioè la scomposizione della relazione sociale nelle sue dimensioni. A, G, I, L, abbiamo due nodi, e tra questi due nodi avremo una relazione identificata e identificabile attraverso dei legami che sono indicatori della dimensione A, della dimensione G, della dimensione I, della dimensione L. Sarà sufficiente per noi trovare un legame indicatore per ciascuno, e anche uno solo per ciascuna di queste quattro dimensioni, per avere studiato le reti di relazione, per aver identificato la relazione nella sua multidimensionalità. Quindi relazioni economiche, relazioni politiche, adesso qualificheremo cosa vuol dire relazioni politiche, dimensione integrativa e dimensione dei valori. Abbiamo due nodi e naturalmente poi in base ai contenuti che decidiamo di studiare e ai grandi indicatori che decidiamo di usare, possiamo registrare solo la presenza assenza, la direzione, il segno, l'intensità, la molteplicità. Questo è già un esempio di molteplicità di legami, perché abbiamo perlomeno quattro diversi legami, però non esistono fini a se stessi, ma sono indicatori di una dimensione relazionale. Ok? Il problema è a questo punto come riconoscere un legame indicatore di A, un legame indicatore di G, un legame indicatore di I, un legame indicatore di L. Ecco, io al di là di... Voi pensate all'utilizzo di questo schema nella produzione di qualsiasi tipo di modello di intervento o di uno schema di collaborazione tra enti, eccetera. Non si trascura nessun aspetto utilizzando questo. L'idea è di utilizzare le potenzialità linguistiche, cioè proprio conoscitive dello schema Agile in chiave relazionale, dentro lo studio delle relazioni, cioè fare luce dentro una black box che diventa la relazione e non più l'azione. Allora, la chiave, il codice d'accesso, mi viene sempre in mente De Gregorio, non so se conoscete il compagno di viaggio, pezzo di De Gregorio. Vabbè, forse dica codice d'accesso, codice d'ingresso, no? Nel testo, bellissimo pezzo. Beh. Ecco, questo è un valore. Ho parlato di un mio gusto musicale, chiedo scusa. C'era ieri sera. Dove? Su Italia 1. Ah, in televisione? Sì. Ah, no, c'era dei regoli sotto uno specchio. Qualche tempo fa è venuto anche proprio dal vivo, no? Quindi. Bene, allora, i mezzi simbolici generalizzati di interscambio sono la risposta alla domanda come faccio a riconoscere un legame indicatore di ciascuna delle quattro dimensioni relazionali. Che cosa sono i mezzi simbolici generalizzati di interscambio? Anche questi sono stati introdotti da Parsons e poi rivisitati in chiave relazionale. I mezzi simbolici generalizzati di interscambio sono dei reticoli di valore, diciamo così, che i soggetti riconoscono anche a degli oggetti fisici e che consentono a questi oggetti come contenuti di produrre dei legami tra gli individui, perché sono riconosciuti alla stessa maniera da tutti i soggetti che interagiscono, e questo fonda la possibilità del legame. Ricordate Crossley e l'interazionismo simbolico: il legame non esiste prima, l'azione del singolo non esiste prima del legame. L'azione esiste dopo rispetto all'interazione. Bene, allora, per la dimensione relazionale A delle risorse, il mezzo simbolico generalizzato di interscambio è il denaro. Ora, il denaro è naturalmente può direttamente circolare tra le persone, ma di che cosa è indicatore il denaro? Il denaro è indicatore del trasferimento di beni, di oggetti tra le persone che abbiano un, soprattutto un significato strumentale per loro, cioè che sia che serva, che sia utile a raggiungere qualche finalità. Allora ci sono dei legami che possono essere capiti attraverso questo mezzo simbolico e generalizzato di interscambio, cioè il denaro. Per la definizione razionale delle mete o della modalità dell'oggetto, il mezzo simbolico è il potere. Che cos'è il potere? Se dovessimo definire il potere, come potremmo definire il concetto di potere? Senza pensare a un referendum empirico, La capacità di condizionare l'azione altrui. Al di là e anzi contro la sua stessa volontà. Esatto. Allora, perché faccio un esempio? Perché nella dimensione G a livello societario c'è lo Stato? Perché lo Stato è legittimato all'utilizzo, all'esercizio ordinario del potere. Ok? Ora, il potere è un contenuto importante dei legami, delle relazioni sociali. E noi dobbiamo cercare dei legami che siano capaci di dirci se tra due soggetti esiste l'esercizio del potere. Il potere, l'esercizio del potere, che era messa bene in evidenza anche da Costeri, Perché è importante il potere? Perché attraverso il potere si produce una dipendenza dentro gli scambi, nell'ambito delle relazioni sociali. Allora, se tra le persone che dovete aiutare, che dovete sostenere, esistono dei legami di potere, è molto importante identificarli, perché questi possono avere una incidenza sul modo in cui ottenete dei risultati mentre agite, sulle relazioni sociali. La dimensione I integrativa è la dimensione relazionale delle norme o degli standard di integrazione, e il medium simbolico di interscambio è quello dell'influenza, cioè della fama, della reputazione, che è cosa diversa rispetto al potere, che è cosa diversa rispetto al denaro. Un legame strumentale è una cosa, un legame di potere è un'altra, un legame di influenza è un'altra cosa di nuovo. E ci sono degli indicatori, dei legami indicatori specifici per la dimensione della influenza. Infine, la dimensione relazionale dell'orientamento al valore e il medium simbolico è quello dell'impegno per il valore. Allora, il legame che ci unisce, se cerchiamo questo mezzo simbolico di interscambio, è il comune impegno per un valore. E questo è un legame, ed è un legame diverso dal legame di influenza, dal legame di potere, dal legame di denaro, cioè strumentale. Allora, teniamo a mente queste caratteristiche e le funzioni che, ecco, alcune dimensioni, nelle dimensioni sociali del sistema sociale che abbiamo identificato, le dimensioni relazionali, prevale in ciascuna di queste, prevale il suo mezzo simbolico generalizzato di interscambio. Non è che i dati non ci siano, non è che il terzo settore non usi il denaro per intenderci, lo usa, lo riconosce, ma non è quello il mezzo simbolico generalizzato di interscambio di elezione per il terzo settore. Non è che lo Stato non usi l'impegno per il valore, anzi, tutta la ritualità pubblica, la memoria collettiva, pensate alle cerimonie del 2 giugno, produce un impegno per il valore. Dove si vede adesso questo, per esempio, in Francia, dopo i fatti terribili dello scorso venerdì? C'è l'inno nazionale dappertutto. E lì vedete proprio un popolo che si ritrova attorno a un impegno comune per il pavone. Sono cose che uniscono, che cementano la società. La ritualità collettiva è fondamentale. Non è che quindi lo Stato, ma il mezzo simbolico generalizzato dello Stato è l'esercizio legittimo del potere. Quindi, qual è la funzione dei mezzi simbolici di interscambio? Quella di far funzionare le dimensioni specifiche delle relazioni e con il fatto, per il fatto che sono usati e riconosciuti anche dalle altre dimensioni della società, cementano l'intera società. Cementano l'intera società. Il mezzo simbolico del potere è riconosciuto dal terzo settore, che se vuole restare integrato dalla società deve seguire le regole che lo riguardano. Ok? E se non vuole fallire, una buona organizzazione di volontariato deve fare molta attenzione al bilancio, a chiedere finanziamenti, farsi finanziare dal mercato, dove tutto sia possibile. Ma non è la produzione di profitto, la produzione di denaro, lo specifico fine dell'organizzazione di volontariato. Quindi, questa è la capacità dei mezzi simbolici di interscambio e poi a livello sociale di integrare la società perché sono riconosciuti e letti da ogni dimensione e quindi quella di integrare, torniamo per un momento, quella di integrare la relazione sociale. Questa è la classificazione che trovate proposta dei legami sociali. Allora, se noi partiamo dal concetto di relazione e lo semantizziamo utilizzando lo schema AGI, possiamo produrre una classificazione dei legami sociali, cioè quello che non abbiamo trovato finora. Cioè un modo per identificare le specificità, le caratteristiche peculiari di ciascun legame indicatore rispetto a quale concetto più largo, multidimensionale, ha concetto di relazione sociale. Per cui, per dire subito quale potrebbe essere una specificità pratica di questo, se voi volete studiare le relazioni nella loro multidimensionalità tra i soggetti che state seguendo, dovete avere un legame indicatore almeno per ciascuna delle quattro dimensioni relazionali. A quel punto la relazione tra due individui non sarà più il fascio, la somma, la giusta posizione dei legami, ma sarà l'interazione tra legami che sono indicatori di dimensioni diverse della relazione. Questi sono degli esempi. Dimensione relazionale A, G, I, L, è chiaro questo, no? È chiaro la differenza tra A, G, L. La lingua che parlano queste relazioni, cioè il mezzo simbolico specifico che hanno, è la qualità del legame, il contenuto della relazione. Meccanismo di adattamento, cioè trasmissione di beni, qualità del legame, il contenuto della relazione, qualità del legame, la modalità dell'oggetto. Che cosa vuol dire modalità dell'oggetto nella qualità del legame? Che il legame definisce lo stato futuro della relazione, è lo scopo, il fine. Ogni relazione ha la sua progettualità, mentre voi siete in relazione con qualcuno pensate allo scenario futuro e questi sono legami specifici di questo aspetto della relazione sociale. Il contenuto e l'esercizio del potere, qualità del legame, standard di integrazione, contenuto della relazione per i è la coesione sociale, la socievolezza. Guardate anche a riferimento alle teorie dei settori, diciamo così, primo, secondo, terzo, quarto settore, e alla specificità che troviamo nei contenuti di ciascuna relazione rispetto agli scopi che vediamo a livello macro tra i quattro sottosistemi fondamentali, le quattro dimensioni relazionali della società. E L, l'orientamento al valore, come qualità del legame, la condivisione di un'appartenenza. Qui ci sono gli esempi. Quale legame è indicatore della dimensione relazionale del A, del meccanismo di adattamento? Il passaggio di denaro, il passaggio di beni materiali, il passaggio di informazioni. Non serve averne tre. Se avete quattro domande da fare, è meglio metterne una per ogni dimensione, perché queste tre cose vi daranno aspetti un po' differenziati della stessa qualità relazionale, della stessa dimensione della relazione tra queste persone, cioè il legame di trasmissione di beni, il meccanismo di adattamento della relazione. C. Gli esempi quali sono? la presenza di gerarchie, i legami di autorità, le condizioni organizzative, se ne possono fare altri, ma sono legami di che prevedono l'esercizio del potere. Cioè, N1 può decidere lo stato futuro, la modalità dell'oggetto di N2. I, coesione sociale e socievolezza, esempi di legami indicatori di questa dimensione della relazione sociale, sono l'amicizia, i legami effettivi, la condivisione del tempo libero. E infine, per l'orientamento al valore, abbiamo degli esempi di condivisione di appartenenza, come orientamento, l'identificazione di un comune valore rispetto appunto al legame, alle relazioni, il legame di parentela, il legame di colleganza, la condivisione di membership, cioè essere iscritti alla stessa associazione, condividere al di là della presenza di un ambito di legame amicale, di una gerarchia, perché magari uno è presidente, l'altro è vicepresidente di questa associazione, il passaggio di beni materiali, di sostegno, magari si aiutano, sono amici, quindi si possono aiutare, eccetera, ma la presenza di una condivisione di membership è di per sé un indicatore di legame, diverso, che ci dà un'informazione diversa sulle relazioni che hanno le persone. Allora, torno un attimo indietro. Adesso riguardiamo con questi occhi questo disegno, questa figura. Voi avete due soggetti, potreste avere 50, 100, se volete studiare le relazioni tra loro, dovete avere un legame indicatore di ciascuna di queste caratteristiche. Trasmissione di strumenti, di beni, G, esercizio del potere, I, legame amicale, di simpatia, di tolleranza, eccetera, L, condivisione di qualche forma di membership. Quello che mi viene sempre da chiedere quando rifletto su questo schema è, e condivido con voi questo mio interrogativo, c'è una forma di legame che non si possa spiegare per dentro, in qualche modo? Che non si può. Che non si possa spiegare da dentro. Perché fin tanto che questa proposta resisterà a questa domanda, appunto ragioniamo a livello di falsificazionismo, fin tanto che riuscirà a resistere a questa domanda, allora funzionerà, perché identifica delle dimensioni relazionali distinte. Se ricorda quello che mi diceva, allora mi diceva, comunque caspita, durante la discussione noi abbiamo parlato dello schema agile, lo schema agile è potente dal punto di vista olistico, e rischia di non farmi trascurare nessun aspetto quando lo utilizzo per scrivere una convenzione, per pianificare un intervento, di non trascurare nessun aspetto. L'abbiamo applicato all'università. L'università ha una dimensione delle risorse, reperisce risorse in diversa maniera, ha degli scopi, la ricerca scientifica, la didattica e la disseminazione di questi risultati, ha delle regole interne, tanti statuti, eccetera. I, è i valori. L'università laica, sta già di loro, l'università confessionale generale. Caspita, ma è potente, mi consente di fare oltre, di orientare l'analisi sociologica della realtà. Ecco, questo stesso sentimento lo si può provare applicandolo all'analisi dei contenuti delle relazioni. Perché se lo riusciamo a utilizzare dentro l'approccio relazionale, abbiamo risolto il problema della definizione lessicale e operativa della relazione sociale, che diventa la relazione tra diversi legami, cioè tra diversi contenuti dei quali noi sappiamo qualcosa utilizzando dei legami indicatori, d'accordo? Raccogliendo delle informazioni su ciascuna di queste dimensioni. Quindi, ora, poi pensateci, se c'è un legame che non si può incasellare, classificare là dentro, continua ad esistere, se no, quando questo non sarà più possibile, bisognerà tornarci su, migliorarlo, renderlo in qualche modo più capace di leggere una complessità che per adesso non è invece in grado di leggere, di vedere. Ecco, questo è un esempio di una ricerca, è un caso specifico dei 300 casi, forse 307, di una ricerca che abbiamo fatto a Verona utilizzando queste tecniche. Questi sono dei legami indicatori nella fattispecie di relazione di sostegno. Ricordiamoci che Agile è ricorsivo, quindi io posso applicare Agile a e avere quattro dimensioni del sostegno, d'accordo? Questi sono legami, io adesso aggiungo informazioni che sono sostegno. sostegno, ma possiamo utilizzarlo per dei legami non necessariamente di sostegno. Vedete, questo soggetto ha questa rete attivata per l'indicatore A, questa rete attivata per l'indicatore G, per l'indicatore I, per l'indicatore L. L'idea di proporre questa classificazione è venuta studiando proprio delle reazioni di sostegno, che potrebbe essere utile in modo particolare per voi, cioè il concetto di capitale sociale. Se vi interessa potete vedere, diciamo, l'idea di poi qui è spiegata a livello generale, è nata proprio in occasione di un volume che si chiama l'analisi del capitale sociale, edito da CEDER nel 2007, che è un volume sul capitale sociale, sul concetto di capitale sociale. Se noi applichiamo questo strumento al concetto di capitale sociale, identifichiamo quali quattro dimensioni relazionali del valore nei legami: la dimensione delle risorse, gli aiuti materiali, in L, vi dico più quelli un po' più, no? Forse intuitivi, il sostegno profondo, l'aiuto profondo, il consiglio in caso di necessità, no? Ti trasferisco un valore, ti do, ti insegno un modo per superare una situazione di difficoltà. E qui abbiamo la reputazione e le credenziali sociali, la versione buona della raccomandazione, ok? Perché l'indicatore di potere? Vai come se fossi io, di che ti mando io. E se io posso esercitare un potere su quel contesto, tu lo eserciterai perché io ti conferisco questo aiuto, ti autorizzo a utilizzare le mie credenziali sociali. E infine, i contatti, in I, cioè ti presento qualcuno che ti può aiutare, ti creo un nuovo legame di interconoscenza. Ok? Quattro dimensioni distinte del sostegno sociale dell'applicazione al progetto di capitale sociale. Va bene, tempo è esaurito. Avete qualche domanda? Bisogna analizzare questa emozione. Come? Prima di fare le domande, bisogna razionalizzare quello che senti. La dovete mettere in relazione. Sì, non c'è. Va bene. Domani ripartiamo da qua, eh? Vediamo la differenza tra personal e funnel analysis, poi torniamo a Chiesi con gli strumenti di raccolta dei dati, cioè degli aspetti pratici della ricerca. La prossima settimana proviamo a fare qualcosa, se ci riusciamo, qualche informazione. Bene, grazie per la vostra attenzione.